scaricare dal settimo piano e piazzare. Aspetta, settimo piano, fai l'ascensore. No, fortunatamente con la scala aerea, Dio mio, se no già ci conta. Anzi, già mi conta, sono 120 scatole tra vestiario e pallevare, più cucina, sala, camera da letto, matrimoniale e due divani. Ah, tutte le certe scatole per smontare. Ma tu le smonti solo o carichi pure? No, no, allora, oggi abbiamo, ho smontato, perché lo va, nel senso, il mobiliere ce lo sono io oggi, smontato, imballato e caricato nel camion, domani con la scala aerea si porta su, sballo e piatto. Ah, ecco, non ti avevo capito, pensavo che dovessi smontarlo domani, dal settimo piano, invece il settimo piano lo devi montare. Esatto, sì, domani mattina alle 8. È stato già pagato il suolo pubblico la settimana prima, messi i cartelli, contatto di giorno, ora mesiana, tutto quello che comporta, il numero del documento che è stato fatto, pagato, e domani si arriva lì alle 8, si piatta la scala aerea, due scaricano, sale su, la prendo la roba, inizio già a sistemare nelle stanze, poi quando quasi tutto è scarico, ci sono solamente scatole, inizio già a montare. Sempre organizzato, sempre quello là, Sempre quello là. Andare, e ci devi abbigliare un liscio. E purtroppo già, quando ce n'è mi chiama, quello è il discorso. Sarebbe bello ogni giorno, è faticoso la verità, perché devi correre, non mangi finché non finisci, purtroppo è così. Questi lavori sono così. Costato ogni giorno, sarebbe una bella cosa. È faticoso, non so che è faticoso, ma ti capisco, perché anche io non faccio un lavoro seduto nella sedia. Oggi per dire sono andato al settimo piano senza ascensore e ho caricato 10 casse di acqua, ho fatto tre viaggi in tutto al settimo piano senza ascensore, col carrello tirando. E vedi, anche quello è faticoso, sì. Già lì alla fine, dai, sia il mio che il tuo lavoro sempre di movimento, non ti stai mai fermo per niente, è quello, Quei pesi fanno la loro parte, giustamente, e dunque prendi e corri da una parte all'altra, è quello, e poi a volte ti capita qualche peso un pochettino più fastidioso, dunque, ti crepa quello durante la serata. Poi il bello, quando non mangi, inizia a mancarti le forze, però non ti devi fermare, perciò non le finisci più. Dunque devi stare da una corda da una parte all'altra, andando tra le porte, non sporcare i muri, invece il parquet come domani bisogna prima sistemare tutto l'appartamento per non graffiarlo, e sono tante piccole particolarità che, tra virgolette, devi prendere la calma, ma non troppo, devi dare una via di mezzo. Più che calma, attenzione a chi si fa, ci devi bagare, e quindi meglio stare attenti in questi casi qua, come. E vabbè. No, perché se non avessi lavorato saresti sceso con me a pescare. Almeno ti saresti passato una serata all'aria aperta, davanti al mare, avresti rispetto un po' di iodio. E quello già è vero, Bisogna vedere domani a che ora finiamo. Speriamo presto, siamo 1, 2, 3, 4, dovremmo essere in 6 domani, se tutto va bene. Dopo tra una cosa e l'altra già si dà un bello schiaffo, questo trasloco. Adesso vediamo come, comunque domani alle 7:10 in piedi, la sveglia, puoi scendere giù e partire direttamente, già tutto pronto. Vabbè, è una bella catena di montaggio allora. E alla fine così, poi quello che piazza sono sempre io. Senta nessuno a piazzare. Sì, a passarmi i peti, i pensili, qualche peso più pesante, poi per il resto nell'assemblaggio ci sono io. La maggior parte, diciamo, sono persone di una certa età, con fronte a me, 15, 20 anni anche più grandi, che hanno fatto diversi altri lavori, al di fuori del mobiliere, dunque li scaricano, sistemano, poi per il montaggio non, diciamo la verità, non so dove mettere le mani, tu li chiedi. chiedi quello che ti serve e poi per il resto diciamo faccio tutto io. Vabbè, se facciamo di cosare un bello poco, capisci? Già c'è il tanto, già c'è il tanto. Per lui giustamente, anche per gli altri che lavorano. No, guarda, è onestissimo. Ti compra le sigarette, ti porta al bar a fare colazione la mattina, poi quando ha finito ti prende il mangiare, no, per quello, e poi ti paga, finito il lavoro e paga a tutti. No, per quello è onestissimo, la verità, niente da dire. Tu chi ci ha detto ancora al giorno d'oggi, eh? Quello sì, quello è vero. E guai, non hai sigarette, poi te le compra, tu fuma e lavori, è compreso. Hai visto? Così è che si fanno volare bene i principali, lo sai. Così non gli toccano nulla, li rispettano e tutto. Invece quando pagano poco, ti praticamente tu vedi quello che dice, ah, non mi paghi e io te le prendo le cose. Eh beh, giustamente, sei costretto, alla fine ti sfrutta sino all'osso, poi nel bel giorno che non ce la fai più, giustamente, te la fai pagare a modo tuo. No, ma questo è la verità, niente da dire. Questo è tranquillissimo, sicuramente ce lo conosci anche tu. Ma traslochi a Sassari? Beh, a Sassari e continente anche, quando capitano. Come si chiama la ditta, te lo ricordi? IAM, TAM. No, non ho mai sentito di quella ditta. E comunque, vabbè, se è così, Antonè, fa piacere anche lavorare con certe persone, perché quando sono così comprensive vuol dire che anche loro hanno lavorato, sanno cosa vuol dire. Sì, qua infatti pienamente d'accordo, da quanto lavora, anzi da quanto ha lavorato e sta continuando a lavorare, ma proprio uscirci di testa nel lavoro per cercare di andare avanti, organizzare tutto, proprio prenderti lo stress e ubriacarti ogni giorno di lavoro, dei pensieri, organizzare, disfare, sistemare i mesi, fare i viaggi. E 5 anni fa gli è sceso un ictus questo, e fortunatamente si è ripreso, proprio dallo stress lavorativo. Poi continua ancora a avere quello stress lì, non te lo porti addosso, guai, non riesci più a togliertelo. Perché devi fare, capito? Se stai fermo, guarda, sembra che ti scenda una sincope. Sempre fa, non dorme mai, guarda. Non lascia un minuto fermo che sia sempre pensando a voi, lo vedi lì, fermo, immobile. Tu lo guardi in faccia, manco ti caga, sta pensando, un preso. Sta sempre lì macinando con la testa cosa fare, cosa organizzare. È allucinante, la verità. Antonio, perché quando c'hanno mezzi grossi devono uscire anche le spese. E quindi è normale che oltre il fabbisogno quotidiano qui debbano uscire tutte le spese che portano i mezzi, che si va a cambiare una ruota di quei mezzi grossi, costa una barca di soldi, è un guasto, una cosa, è nafta, è quello e quell'altro, deve rientrare, quindi in qualche modo deve toglierli fuori. E infatti quello c'è, sono un saccaggio di spese. Quello pienamente d'accordo, ce ne sono tante e giustamente devi rientrare per forza sia per i mezzi, qui sono sempre efficienti e giustamente il guadagno per lui è il quotidiano, quello pienamente d'accordo, dunque devi trottare veramente, non devi lasciare mai una virgola fuori posto, cercare sempre l'occasione giusta e fare pezzi giusti e bene o male li fa giusti alla fine. Non è che ci sarà guadagno, l'importante è che si lavori, capito? Confronta ad altri. E anche perché c'è la concorrenza a combattere, a giorno d'oggi non è facile il lavoro, perché magari tu devi fare un prezzo giusto, c'è quello che devo fare un pochettino più basso per fregarti il lavoro e ti rubi. Guarda, non è detto, questo è successo 2 mesi fa, questa signora di Alghero si è trasferita in un paesino lì nel Veneto, e ha fatto diversi, come si dice, affanculo, diversi preventivi, e questo qua gli ha chiesto 600 euro, e è rimasto un po' così, ma com'è possibile? Solamente per andare ce ne vogliono 300, altri 300 per tornare, e il gasolio, gli operai, scaricare e piattare, non è possibile. e si è messo queste paranoie solamente perché il prezzo era troppo basso, con la paura, ma non è che do la merce, e poi questo, firmo, pago, e poi neanche me la consegna. E dunque alla fine ha chiamato questo signor Tore, non so quanto era il prezzo, sicuramente più di 600, perché bene o male a volte capita anche che solamente per il mezzo in cui hai carico ne devi pagare solamente per il mezzo 400 euro, più la camera, la persona, tutto quello che comporta. Solamente perché il prezzo era troppo basso, non l'ha chiamato, perché si porta gente già se ne mette le paranoie, porca miseria, 600 euro, come fai a farmi un trasloco 600 euro? E il gasolio per viaggiare, il mezzo, la nave, e magna, e l'operai, è impossibile. E così aveva fatto 600 euro, non aveva preso per quel motivo lì. Dottore, non è mica tutto zetto, mi ho connesso da un Biasciassa. Vito, 800 euro. Vabbè, ma sì, Olbia Sassari però, quanto ci vuole? 50 euro di allora, 100 euro di caso di andare e tornare, ecco, 100 euro, 700 per gli operai. Ebbene, niente, è ciò che ho fatto. Minimo 200 euro buoni a testa se li hanno fatti. Sì, infatti, quello lì mi è sembrato un po' esagerato. E infatti a me mi sembra che mi metti tutto, l'ho detto, però non so come sia andata la storia, poi ci ha parlato tu, non so cosa sia successo, perché io poco lì non l'ho più parlato. Comunque la casa è quasi tutta quanta sistemata adesso, mi manca il divano, la sala e basta. Che devono portarli ancora? Sì, devono portarli, e quindi è bello risistemato. Anche se la casa non è come quella che avevo prima, perché Claudia c'aveva una villa a due piani, praticamente va zona giorno e zona notte, con la scala bella, tutte fatte in legno, cioè quando gliel'hanno consegnata non c'era, poi se l'ha fatta fare al falegname, tutta la ringhiera in legno, tutta intarsiata, ma è bella come casa era. Poi non si dà, l'importante è che poi alla fine, diciamo, questo trasloco, diciamo, è definitivo, rimane direttamente sempre a Sassari. Eh sì, si è trasferito dall'ospedale di Sassari, di Olbia a quello di Sassari, quindi lui se la vanno qua adesso. Perfetto, ma l'importante è che sia rimasto contento, ecco, la trasloca che sia andato tutto bene. Eh sì, quello sì. Ho dovuto alzare perché chiudere la porta, perché quello di sotto sta arrostendo. Minchia, c'è un odore di arrosto impressionante a casa, stava allumando tutto l'appartamento, dunque mi sono alzato e chiuso la porta e aperto le finestre. Io l'altro giorno sono andato a vedere lo spin e c'erano le graticole elettriche 19,90 e ho detto andiamo, la prendiamo, e cosa ne fai? Che poi non è che in definitiva non è come quella, diciamo, con la legna. L'abbiamo presa alla fine, e prendiamo e freghiamo, cioè diciamo che non l'ha regalata, e l'abbiamo presa, ma così l'abbiamo comprato degli spiriti, abbiamo fatto arrosto, ma ti dirò che erano veramente saporiti, ma buoni, proprio buoni li ha fatti, sembravano fatti con la legna. Ascolta, ma quella griglia che hai preso tu, ha un contenitore, diciamo, dove devi mettere l'acqua anche sotto, giusto? Sì, sì. C'è un contenitore, tu metti l'acqua dove cade l'olio per non attaccarsi. Perfetto. La resistenza ti diventava rossa oppure sembrava spenta, tu giustamente il calore c'era? Spenta. Perché a me me ne ho regalato una e poi l'ho portata lì al mercato dei pulci, nuova, grande. E ci metteva un bel a cucinare, cazzo, l'ho preso e l'ho portata là. E mi ha fatto due citi da lì. Questa nuova mai usata, comprate e lasciata lì in scatola. Se avessi saputo te l'avrei data. Sì, vabbè, Antonio. Sai cos'è? La graticola elettrica devi farla scaldare un po' prima per fare bene le cose. È come il fuoco, no? Che tu metti la graticola, la metti sopra, la scaldi, la pulisci e poi una volta che è calda la graticola ci butti la carne. E così è quella lì, la devi lasciare accesa per un po' di tempo, di modo che scaldi bene. Come metti la carne? Guarda che gli spiedini non è facile cucinarli, perché sono grossi, c'è la peperoncina, c'è la salsiccione, c'è un pezzo di carne, e quegli spiedini che vanno in macelleria. Perfetto, no, io ho provato, ma non... Guarda, ho cucinato delle ali di pollo, ma minimo c'era un'ora cucinando. Vabbè che le ali di pollo ci vuole un po' di tempo, comunque. Poi ho provato con qualche fettina, sì, la fettina cucinata in fretta, ma se devi mettere al di fuori della fettina ci mette troppo tempo. Ho preparato le palle, ho preso la fatta bene, la prima volta usata, presa e portata là e via. No, non mi è piaciuta, preferisco più, diciamo, la graticola a carbone. Cucina molto più in fretta, sì, fa molto più fumo, per carità, ma c'è una bella differenza. Tutti quelle che faceva la resistenza rossa? No, io li avevo visti altri modelli, allora, questa qua era proprio a forma di serpentina, di U alla fine, no? Si poteva toglierla, fare anche lei, lo stesso, la marca era Ferrari. Nuova, grande, quanto era lunga? Minimo 65 cm, 70, abbastanza grandetta. E questa per niente, sì, si sentiva il calore, però la resistenza non diventava, non dico diventare rossa, ma almeno il colore del rosso sì, perché arriva a una certa temperatura. Questa no, si poteva regolare da 0 a 3, 4, la verità, arrivava sino a 4, però niente di particolare, no, non mi è piaciuta. L'ho preso la corretta là, però la ripeto, nuova. Questa qua diciamo che ha cucinato, sì, un po' di tempo ce l'ho messa, ma perché Liliana non sapeva usarla, aveva provato a attaccarla prima di arrivare al lavoro e ha detto che aveva paura e cosa. Aspettate che arriva sia la rispenta, capito? Quindi una volta che sono arrivato l'ho accesa, l'ho messa come dovevo mettere e poi gli ho messo sotto gli spiriti. E abbiamo mangiato le 3:15, però li abbiamo mangiati bene. E cucina, diciamo, lenta e piano piano, quello sì, non sporca, non fa fumo, giustamente grazie all'acqua, quello già è buono, ma io ripeto, ne ho viste altre che scaldavano veramente, molto più in fretta, la cosa cucinava, è buona ugualmente, questa che ce l'avevo sicuramente anche la tua, no? Ci mette troppo tempo, se metti lì il pollo, guarda, minimo ci voglio 2 ore di cottura, e all'anima, allora non conviene. Ecco. Anche lei comunque dipende dai watt, la mia c'ha 2000 watt, quindi probabilmente scalda meglio. Avanti, prego. Buonasera Gianni, e anche Antonello. Poi Gigi, perché sei affannato? Ah, sai perché? Perché c'ho la pancia piena, forse sarà per quello. Il piano l'abbiamo fatto. Alfa, ma non la sai, questa festa che c'è a Campanella, niente sai cos'è? Non so nulla, io so la festa che c'è a Villacido. Villacido dovresti andare. Ehi, ma tu per cosa hai detto? Campanella hai detto? E a Campanella ci dovrebbe essere una festa. No, ma di che cosa? Festa patronale, che cosa sei fatto? Sì, buono, non lo so se è roba patronale o se è roba di quartiere o che cosa. Ma te lo sto dicendo perché io porto ai chioschi, porto la merce, capito? Quindi ho portato la merce per questo chiosco, che devo andare via a Campanella che c'è la festa. Non mi sono ricordato di chiedermi che cosa c'era. Qui a Campanella portano sempre cantanti conosciuti, anche se magari di vecchia data, tipo, non ti posso dire, i ricchi e poveri, tutti questi qui, però cantanti conosciuti. Là. Non so niente, so che c'è Gaetano che viene con noi, uno di questi che lì fa, organizza Campanella. E poi Gaetano è con noi domani, non ho detto niente. No, se vabbè, magari è qualche chiesa che stanno mettendo così, alla domenica, che ne so. Andare. E allora Gigi, è finita la settimana? Sì, finita, abbiamo finita. Oggi sono andato bene, ho fatto meno di 600 km, ci mancava poco, però non l'abbiamo superato oggi 600 km. Allora, e dove sei andato? Per la volta Auristano sono andato oggi, poi da Auristano sono andato a ricaricare a bere tutti. Grazie, sei riuscito. Cavaga, vabbè. Passata, là. Mia moglie dice, se te lo ricordi quello che hai fatto lavoro un'altra volta, così mi devo ricordarselo. No, io me lo ricordo, non lo dimentico, e come faccio a non dimenticarmi? Ma dice, quando tu ne riparli, se lavoro un'altra volta. Lo dice così, e tu che me l'hai chiesto, io te l'ho detto. Sì, no, ma dico. Quando per dire mi lamento di croccavo quanto sono stanco e non ci pensare, se lo lavoro un'altra volta. Va bene, ormai sono abituato e se non lo faccio mi manca pure. Ma io sto pensando quando... Perché mi ha chiamato la Geremia? Perché ho sentito la radio, stavo cercando a me e c'è il telefono, scusa. Antone, avanti Antone. Yeah, buonasera Gigi, è ben sentito. E infatti si sente un po' la voce stanca, Sì, no, sono stanco Maurizio, sono stanco veramente. Sarà pure la radio, la faranno, non l'accendo, insomma questa stanza si è regolata bene. E a voi, 9+10 sì, da parte mia, e la radio 5, senza problemi. C'è la tua voce un pochettino così spenta, si vede che ha voglia di andare a nanna, È positivo, aspetta una cosa. Sì, sta rilassando adesso. Ma come si sente la mia moglie cosa ha detto? Ehi, perché prima ho chiamato a te, e dopo ho trovato quest'altro, adesso proviamo questo, poi si che già ne abbia quello, ho fatto uno e l'altro. Ti stavo chiamando io poco fa, a vedere se eri vivo o morto. Ehi, ma io non ho capito. Ti ha chiamato Mondere mia, come c'hai tu? Sono rimasto impreso, dice che Marco una volta, quando ti ha chiamato tua moglie, ha guardato il telefono, ha letto Mondere mia. Ah ecco, dunque quando chiamo io esce Mondere mia, già va bene lo stesso. E anche a me mia moglie, Mondere mia, mia moglie alla fine è sardo, la devo scrivere Patrizia. E poi i nomi li strappano nel telefono, dunque cioè, se uno va a cercare sono i nomi stranissimi, come li intendo io, dunque non sa che sto chiamando. Infatti ho scritto moglie di doppio, quando devo chiamare tua moglie, e a te doppio rum. Io invece camuffo quelli delle donne, le scrivo per dire Massimo e per dire che corrisponderà. mi sa che ci diamo la mano, Ecco, io metto le iniziali, non metto mai il nome completo. Comunque a Cagliari dicono pubblicità mia. Dicono ieri? Pubblicità mia, la moglie mia, pubblicità mia. Ah ecco, no, non esalgo, mudere mia, adesso che c'è mia moglie. Capito già, pubblicità mia. È diverso, il cagliaritano si assomiglia un po' al sardo, ma non è che sia proprio una cosa uguale, c'è qualcosa di diverso. Se si fa tante cose sono diverse, capito, tante cose sono diverse, ma ormai io sono stato a capirlo bene, dai, lo capisco bene. E poi sei diventato campidanese a furia di andare. A volte parlo direttamente in capitanese e rispondo pure, capisco benissimo, non è un problema per la lista di capire, ma quasi tutta, l'unico che non capisco è quando vado a Carasetta, quelli non le capisco proprio come parlano, parlano con la Carlo Fortina, cosa cavolo si chiama, non riesco a capirlo, anche quando è un po' stretto anche l'algherese me non capisco. L'algherese è proprio un dialetto a sé, una lingua, si capisce bene con gli spagnoli l'algherese. Dov'è Calloforte e Carasetta? No, io non riesco a capire una cosa, una parola, una sillaba, nulla riesco a capire, anche qualcosa, ma quella lì proprio niente, zero completamente. Sì, è vero, anche io avevo consegnato lì a Carloforte, una specie di... che lingua è quella? Dovrebbe essere... come cavolo si chiama quella? Boh, non mi ricordo più, che lingua era quella? Che dialetto è quello? Catalano. No, il catalano non è quello algherese, quello di quelli... Aspetta un attimo, c'è mia figlia. Sì, il catalano è di Alghero, è quello che parla l'Alghero. Che è la stessa cosa, può essere Calloforte e Callofortino, io adesso catalano sarà, si assomiglia un po'. Mamma ha vissuto parecchio tempo a Alghero e c'era mia sorella quando faceva il minestrone, mia madre non ne voleva mai, diceva che non gli piaceva il minestrone, allora cosa faceva a mamma? Lo dava a quella signora di fronte il minestrone quando lo faceva e poi quello di fronte la chiamava e diceva, ma mi hanno appena mangiato il minestrone con sa corcuriga, lei solo perché sentiva sa corcuriga. Praticamente andava, era incuriosita, quando poi si mangiava il minestrone, la mamma le diceva, beh, è buona la minestrone signora Vacca. E lei diceva, e quello sì che è buono, altro che il tuo, ed era l'usurio. Io questa è la zucca, ecco la zucca, capito? La zucca si chiama così. Porcoria, la provincia c'è così. Lei impazziva per questa corcuriga, gli aveva detto un medibale, questa signora, che era un frutto particolare, non so che cosa, lei mangiava questo minestrone, diceva, manco lo vedeva, ed era quello che aveva fatto mia madre, capito? Allora, mamma non li mangiava. È positivo, è una curiosità, già, ma così sta uscendo bene questa radio, così messa in questa posizione. Certo, oggi, stato veletto, è bello amplificato e tutto. Così cosa cambia? In questa posizione così, guarda un po' cosa cambia. Fare una lata che così controllo bene, osservo bene il cambiamento. Allora, questa è una cosa, no, stavo controllando questa cosa dei fatti, se cambiava qualcosa, così è una posizione, è a mia, a zero. E così al massimo, cambia qualcosa di radio, di qualcosa, o più usato alla radio, da minimo a massimo. Ma io, guarda, non è che noti molta cosa. Di segnale appena appena primo passo dire sembrava più forte. Questo sembra più forte perché è meno watt, giusto? Corposa. Le watt chiuse più corposa, giusto? Cappa. Ma è, diciamo, una cosa minima, dai. Ma anche la radio, però, nel primo passo ci piaceva di più. Così, con queste watt così ti piace di più? Sì, è bella, squillante e tutto. Bella, squillante, forte. Che microfono stai usando? E questo è il Galaxy, Saturn Echo con le più 5, questo, MB più 5, sì, MB più 5 microfono. Chiara, chiara, la radio, bello. Poi l'avevo lasciata così, la posizione l'ho più toccata in quei pomeriggi. Non l'ho più toccata. E poi ti faccio sentire un'altra ancora. E poi mi dice con un watt come va. Non è un'altra con un watt. Bene, siamo qua. Adesso tu ecco qui, non hai deciso se farlo o no. Oh, già che stiamo agganciando, stavi dicendo qualcosa. Ha detto, non hai deciso se puoi farlo o no questo Saturn Echo. No, questo così. C'è modificarlo? Non lo so, lo lascio così, dai. Questo invece, come un batte solo, come radio. Prova che guardo il segnale un attimo. No, ascoltami la radio tu, lascia perdere. Tanto i picchi saranno positivi. Tu guarda solo il segnale. Vai a segnare la radio. La radio è buona. Buona la radio, però preferisco quella del Saturn Echo, era più limpida. È buona anche questa comunque. Il segnale è lo stesso del Saturn Echo, con il Saturn Echo con quanti wattini? Con 10 watt, questo è con un watt. Lo stesso segnale. Ma i picchi? Allora tu guarda la portata bianca, eh. Vedi quando uno lo si aumenta? Che cazzo, la 9.5 vai a 9.20. E ne con un watt, capito? Poi ti faccio di questo, me l'ha fatto Roberto. Me l'ha fatto lui, capito Roberto. Che ha fatto? Vedi un po', cambio. Che apparecchio è? Tipo un tornado, un 2001, un apparecchio del genere. Ah, capito. Quanti, Antonio? Bello. Sicuramente sta facendo il padre, sta chiamando la figlia, lei. Questo me l'ha fatto mettere la scheda dentro, ce l'avevo io qua e se non tengo così di scorta, dai. Che bene comunque. È una scheda vecchia che ce l'avevo, l'avevo dato una giustatina e l'abbiamo messo sotto, dai. Picchia un vatto, che sono dei picchi molto allucinanti. Va bene, ma perché è rotta la scheda? No, non è a me, ma questo scheda. sa che non ci sarà lo spazio da Saturnecco. Ma questo, vedi, questo purtroppo si al PP pure. Sì, questo è guarda. No? Se lo però così, cioè, almeno, e vabbè, già esistono tre volte che devo discutarlo questo. Esiste in banda laterale, in FM e via dicendo. Guarda. No, ma Bippi non ho sentito un micro. Adesso sì. Basso, basso. Non lo so, ma ce l'aveva già lui incorporato, dai. Ah, magari. Come è stato un ecco, si sente bene. Positivo, vedo, c'ha... L'eco all'infinito, cambio... E quando muovi non molla. Muove non molla. Preferisco questo qui, ecco, e quello ripetitivo. Positivo, dai, mettiamo appena appena, questo, di quello ripetitivo è meglio, questo è, me ne date, giovane originale, me ne ha dato 4 di queste schede, hanno capito, e ho fatto mettere le, anche la colpa, però erano usate, dai. Dove c'è un camion da casa bianco? La chiamo bianco, è amore, però quello blu, mezzo d'opera, articolato. Perché mi sembra di averlo incrociato a Fiume Santo, sono da Fiume Santo, l'ho chiuso un anno, ma no. E poi l'ho incrociato una volta, sono imbrigliati nelle curve di Monterrasoli, e sicuramente era lui, perché c'era il boccione. Hanno anche un altro bianco suo, l'autista va su boccione, e la c'è con l'antenna, quella che aveva il buio, ti ricordi? Quello invece è scritto Chiaramonti, perché lui fa Chiaramonti di cognome, da un c'è scritto il rosso Chiaramonti, quello bianco, così è. Sì, sì, deve essere quello, sì. Perché aveva il boccione, trova la mia giovane l'originale. Sicuramente è lui, perché chi sa antenna non aveva nessuno. Sì, la macchina delle sue, della sua di Giovannino, l'originale, però c'è l'autista di Gianmario, quello che ha fitto, e lui c'ha blu, sta viaggiando da Fiume Santo, di Fiume Santo sta facendo lo due mari, Fiume Santo, quello che il trattore sta facendo. E allora c'era lui, perché io sono andato a Fiume Santo a considerare la messa, e stavo tornando e l'ho trovato andando. E ho detto gala gala. Vabbè, Giovannino ha preso proprio adesso, chissà cosa scugita. Ma tu hai visto quella, tu non hai visto quella che c'ha lui, tu hai visto quella che c'aveva lui in gemella qua una volta, che ho visto in garage a me, quella 5.000, chissà quella, tu non hai visto l'altra che c'ha lui, quella era da 5 kg e mezzo, una bella. 5 kg e mezzo, sai cos'è? E c'ha due stili, c'ha uno e l'altro del trencasso. Allora c'ha uno della che è quello più grande della Nocco, la lunghezza è come quello della 2001, però è più grosso, quello grosso lo stile, che va innesto nell'altro. C'è quello grosso grosso che è quanto può essere il dito, c'ha le provoline, tra l'altro lungo, che quello sarà lungo 1,10 m, 1,20 m, quello grosso. E più grosso come può essere un radiale, la rossetta è un radiale già, lo stilo, il primo, e poi c'è l'altro che entra dentro, più grosso di quello della 2001, però lungo sempre di da 1,20 m il grosso. In tutto è 3,20 m l'antenna, lo stilo, capito? Scusate un attimo, mi devo assentare, ci sentiamo dopo. Ciao Antonio, ci sentiamo. Sì. Ho capretto. Ma quella costruita, capito, è fatta artigianale l'antenna, non era? È il cavo addirittura, il cavo di questa antenna che entra dentro, è più grosso di quello che dobbiamo noi per fare le calate, delle cose 113, come cavolo si chiama, è ancora più grosso. E non ha pensato da questa antenna, tocca tre parti. Perché fa quelle tratte di te, ma è tra gli alberi, ricordo, vedi che fine fa quell'antenna. È rosa, ma invece come poi sono una bottiglia e mi tutta lunga così. Allucinante. È come barra agricola, c'ha mille antenne, mille baracchini, non c'è mai piazzato l'antenna in casa. E detto, quanto la piazza, la piazzo! Positivo, poi quelle sono autocostruite e sotto c'ha due bolloni da ricassette a vizzare, mi sa, hai capito? Sotto nel secondo della di sotto l'antenna, va attaccata la staffa, toccata e c'ha due bolloni da regolare a ricassette a stringere, capito? Non è a, come si chiama, va, le venerdine. E poi le cose attaccate al PL con questo cavo più grosso delle, a fianco della pedale, fatta apposta, tutta unica è l'antenna, hai capito? La carica è tutta basetta, non è, è tutta unica, hai capito? E la vita in sotto con due dadi da 17. Sì, sì, ti ho capito com'era. È tipo la Diamond della via Martoriale. C'è l'attacco proprio, si attacca la carrozzeria direttamente. E si va a Poggia, la piazza c'è su due fuori, già con il tavolo 17, con la chiave 17, la vita. Tutto all'ingrosso. Positivo, poi si è fatto questi due 2002 che sono attaccati assieme. Capito? Sono 2002 fatti tutti in una cosa. Si è fatto una temperatura a Roma, questo ingegnere lì, e gli ha fatto due lì 2002 assieme. Ma li usa questi 2002? Perché io non è che lo sento, cioè, non è un segnale normale. Che adesso mi pare non ce l'ha attaccato quel 2002, c'ha il cose vuoto, si chiama il vuoto, ma non è niente, costa 2500 euro, capito? 2500 euro costa quel lineare. Roba poco, lo so, è la passione in camion, se l'avessi avuto a casa, guarda. E si è comprata l'antenna, siamo stati piazzato l'antenna, si è comprata la nostra pedola frustrata, si è comprata e si è montata l'antenna, grazie. Perché la sapiglia? Comunque arriva bene qua, perché io l'ho sentito, arriva bene da qua, da me, perché l'ho sentito qualche volta, l'ho chiamato e ho provato e lo sentivo abbastanza bene, l'ho ascoltato. Ma aveva avuto da lui? Dalma. La capì Dalma. Non è una goppa, sì. Sì, lì, sì, quelli di Chiaramonte, mi sono lui e Chiaramonte, mi sì. Sì, sì, sì, ho capito. Chiaramonte, chiaramente Chiaramonte. Sì, io avevo visto delle fotografie su YouTube, mi pare, o su Facebook, non mi ricordo, c'era lui con i lineari, cazzo enormi, con gli abbezzettini a... Sì, mi ricordo, cazzo, sempre come è fatto quei lineari, proprio tanti enormi, grossi, fatto proprio... Ma non serve, perché tu ci hai provato, cioè tu hai dovuto mettere, non so, a fare altre cose, altre batterie, altri alternatori, si è bruciato l'antennatore, si è bruciato tutto, è andato a casa. Una lotta, che è altro problema. La macchina è la sua, io non posso fare una cosa, ma parte non mette la parte russa. Ma a parte quello, c'è la centralina, cazzo, è una macchina da lavoro quella. Non hanno qua un linearone, un Cupri 26, me l'ha lasciato qua al video, ce l'ho qua della via, grande a 24 per il carro, non l'ho mai messo, mai portato e poi ce l'ho lì da una parte, è enorme, è enorme. Quando da un sacco di fatti è da il minimo che dà, il minimo minimo è 300 watt, meno di 300 non ne dà, capito, 300 in su va. Ma è per cambio. Il per cambio, e non ho rubato un remoto in casa e qua io ero attaccata con l'alimentatore, se non ci do più lo dato a Roberto, infatti ne stavo buscando un altro. E c'è quello che va a Talisci. Quello non ce l'ho più, l'ho dato a Roberto per fare riparare i lineari e roba del genere. Io mi ho fatto un alimentatore, facevo per ottavo quel Cupri 26, a volte lo mettevo anche a secondo scatto a 600 watt, pieni pieni te li dà a fare. Quando ti dava quello che ti aveva a Talisci di là? Non funzionava, quello era quello dell'alimentatore, ma io gli avevo messo quello Cupri 26, quello del camion, abbiamo provato tutti i 750, quelli che tutti potevano attaccare lì a 24, capito? Ecco, da cercare un alimentatore da 24, non è più. Ma qual è l'ultimo? Quello era un'ultima cosa, io ne ho un altro qua, è Roberto che me lo aumenta, capisco per il complimento, ne ho un altro di 24 che funziona, di lineare, però c'è già lineare, dicevo quasi 300, quasi 400 fa, ne ho uno, io già 220 qua, e c'è l'alimentatore. Quello era bruciato, mi è bruciato di finale, le cose non mi serviva, mi serviva solo mettere l'alimentatore a me, capito? Io c'ho quelli, c'ho lineari, quelli del camion, ne ho 250, che danno 500, 520 watt. Uno ce l'ha per poi mio figlio, l'altro ce l'ha in camion io, più c'ho quel cubi 26, che quello pompa ancora di più. Poi c'avevo l'altro, era quasi 700, e lo dato, l'ho venduto, quello. Quello era un magno 124, che era andato a volere una pompa. E quello lo puoi usare anche in casa, se c'è l'alimentatore di latte lo puoi usare anche in casa. È positivo, positivo, no, ma non va quello di casa. Se lo usi a casa lì disturbi un bene, il fatto è quello. Però dico, come lo usare lo puoi usare. E se non è problemi tu, ma va bene, io non ce l'ho attaccato, ce l'ho attaccato, però quando l'ho provato l'ho messo. Il più piccolino che sentivo, quello rispondeva, e non sentivo io a lui, però il più piccolo che sentivo, ma gli mandavo 600 watt e rispondeva, non c'era niente da fare. Cavolo! Poi gli ho detto, ogni volta che lo attaccavo, uno faceva girare, anche quel coso, quel presidente, cos'era, quel George, quando l'ho attaccato molte volte, l'hanno sentito, invece che era radio, che cosa, si pompava un po' con quel lineare lì. C'è proprio un carro in mazzo per queste cose. Ho già provato la propagazione e pompa, è come le pompa. Se hai voglia, faccio il ribetto e ti faccio anche la propagazione. E tragerà solo così com'è. Ma in definitiva che cosa aveva poi? Cosa aveva quello lì? Questa notte c'era bruciata, non avevo detto questa cosa bruciata, questa pista bruciata, forse gli sono entrati un po' troppo infatti, attaccando lineare, qualcosa del genere. Ecco, regala, aia. E vabbè, comunque, basta per la soldatura, quindi. Ti ha fatto Monticello, gli ho fatto ben fatto, ma ci ho messo brutto, non riuscivo a capire perché. Poi ci ho messo la mano, vedevo questa polverina bruciata nera, no? Faceva una di questa cosa di bruciata. E poi quando l'ho voluto vedere, ho detto, all'inizio faceva la cosa celestino, la cosa era toccata tutto, ho appoggiato il dito, vedevo, e funzionava, detto meglio lì. E poi mi scintillava, no? Come appoggiavo il dito, funzionava e scintillava. Potevi fare benissimo una saldatura, invece che con Ticello li saldavi, solo che ci vuole saldatura apposito. Ma siccome ci siamo provato altre volte a saldare le cose, ho fatto più casino, allora siccome io ho visto come fanno quelli che riparano le baracchine, ho visto che non saldano, fanno il ponticello, allora siccome ho la pressione dei punti più belli grossi da saldare, gli ho fatto il ponticello, hai capito? Gli ho fatto il ponticello, c'era un appoggio bello per saldare, hai capito? Grosso, e non potevi sbagliare, non c'era niente da sbagliare, gli ho fatto il ponticello. Ma se tu pensa che ho spaccato una scheda in due, ponticellando la palata ha funzionato di nuovo. Positivo, no, ho fatto quel lavoro, poi una radio data, poi ho regolato un po' perché non era tutta starata, dico la verità, era tutta starata, e l'ho regolato io guardandomi con i numeri, diciamo, dai, abbiamo segnato tutti a cosa corrispondeva la radio, diciamo, perché se fate regola, abbiamo un clima di regola infatti in AM, un altro clima di regola in banda laterale, capito, fa due cose diverse, delle regole. cosa che avevano subito era raro, quello sì, ma ce l'hanno tutti i grassi, tutti i grassi hanno subito era raro, non era stato toccato nulla. Io ti assicuro che quando io mettevo 27.075 ero sul canale 10, è perfetto era. Oggi mi ha provato le bande di sotto, a vedere quanti fatti ti dà. No, no, comunque ti posso dire qual è il prima del, del segnale, te lo posso dire qual è il numero. Non ce l'ho più. Segnale che in base a cosa l'ha regolato. Allora, l'ho regolato la Svizzera MSM. VR1. Il VR1 si regola lo Svizzera in AM e FM. Capito? Poi frequenza, frequenza. No, VR5 registro di frequenza FM. VR7 potenziometro spostamento della frequenza e banda laterale, va bene, poi c'è l'altro a tenere di trovo, infatti ho subito 80 watt in AM, va bene. Al VR14 c'è la modulazione, ti aumenta la modulazione, poi c'è, sì, volevo vedere quello, potenziometro spostamento, registro frequenza FM, squerci, supponiamo che sia giusto, eh? Sì, ne ho messo un altro paio, che non ho mai troppato, mi guardavo quello lì e poi guardavo l'altro, ascoltavo a voi senza definire, guardavo il segnale tuo che mi dava nell'altro apparato, guardando il segnale tuo, ascoltando te, ascoltando un altro, io regolavo quello lì, lo posso portare e lo portavo alla stessa cosa. Capito? Questo è il VR1. Il VR1. Io sto cercando di beccare quello nuovo di uscita, invece con 100 watt gas. Ho fatto proprio un modello nuovo, eh. In America solo lo vendo. Comunque il VR14 è quello della modulazione. Tu l'hai aumentata? Sì, sto seguendo questo coso, però questo appartiene a questo apparato, eh. Ma questo qua è tutto il VR13, la potenza del watt in AM. Invece il VR12, watt USB e ALC, ti aumenta il watt e l'ALC. VR12 ti aumenta il watt in USB, eh. Allora Gigi, gli effetti di quell'apparato io te li dico quali sono. Uno è il modulatore che parte, il modulatore ha pochi difetti, però bisogna stare molto attenti, se si usa un microfono amplificato bisogna aumentarlo appena appena, però non deve sforzare troppo, perché se sforza troppo ti parte il modulatore. Ma io tu l'hai scritto prima, io quello lì l'ho regolato ascoltando, poi te l'ho ascoltato in voi, quello che ho fatto vicino, era ascolto, io ho fatto l'ho guardato da questo tabulato che c'avevo, la modulazione l'ho regolata sia che era buona, ho capito. Me l'hanno detto ascoltandomi, sì, per la cosa era Giulio che era, se non me lo ricordo. Dirò che era buona, capito? Mi ha detto quando era buona io così l'ho lasciata. Siccome infatti andavano parecchi, io l'ho passati a 4, tutti chiusi 4, se no erano tutti chiusi 10 e quando giravo l'altro 4 erano 20 watt di là, capito? Allora io l'ho fatto al massimo 10 e tutti chiusi 4. Anche a 15 lo propone, comunque dalla casa nasce 9 e 21. Vabbè, io non lo so, ho messo così e boh. Sì, dalla casa nasce così, te le da 21 in banda laterale e 9, dai 9 ai 10 watt in AM. E ti stavo dicendo, i difetti sono quello del modulatore, se limiti i microfoni amplificati e sforzano troppo. E poi, oltre a quello lì, c'è il trasformatore interno che è rumoroso, a volte ti dà alternato. Ho capito, se ne dai molti io. No, ma no, non è aperta tutti, l'ho aperta che mi ha detto che andava bene la radio, poi aumenta la sì, c'è una figlia. No, una bella cosa, è completa, a me mi è sempre piaciuta. Ma io l'ho fatta, l'avevo anche ascoltato degli altri, capito? L'ho fatta ascoltando degli altri, quella registrata della radio. Sì, ma potevi farla che colpa l'ascolta. Bisogna un apparecchietto come monitore via e regolarvi come faccio io quando devo regolare l'eco, fornire cose. Mi ascolto in un'altra radio. Ma a volte ascoltando un'altra radio, queste radio sono potenti, ma ha bruciato l'altra, ma è anche se l'ha attaccata a 70. Ha bruciato? No, ma è poi ha funzionato un mio motivo, l'ha fatto la 70, guardando così, sa che si è attaccato il filo, se non c'era più l'antenna. Io lo faccio sempre, non mi è mai successo nulla. No, però se sia stato un caso, qualche volta deve sempre succedere, eh? Ah, mi sono attaccato la tenda, invece scaldano troppo da parì. Non lo so. No, da certo non riattacco, quello lo faccio già un pochettino, quello è stato messo. Sì, va benissimo, è proprio la voce limpida. Comunque, diciamo che la radio si sente che è bella, proprio camprosa, ma l'ha modificato le 20 più 5, non è normale. No, la capsula l'ho cambiata. No, non so, perché non è tonalità, non so, mi vede adesso cosa sta succedendo, guarda un po'. Cioè, così la tonalità è meglio così, guarda. Yeah. Lì sta salendo troppo, forse troppo non va bene, vero? È corposa, bella, forte, ma l'altra, diciamo, almeno la battaglia, però è più chiara. Così è una cosa esagerata, vero? Ma così può andare meglio. C'è qualcuno che sta chiamando, qualche estero. E così ho aumentato troppo. Ha aumentato troppo, ok? Ma va bene o va male? È un passaggio senza gridare. Non sto gridando, sto parlando piano io, no? Sto gridando Gianni. Guarda, va bene. Allora, prima ce l'avevo così in questa posizione, già, ce l'avevo così in questa posizione. Questa è la voce tua, questa qui è la voce tua, con il baritonale, bello. E l'altro invece rimane con più acuti. E così sta abbassando ancora, vero? Sta abbassando ancora, sto chiudendo. No, diciamo che ha più acuti, praticamente una con più bassi e una con più acuti. Sempre dipende da, diciamo, dalla persona quale preferisce, però sono belle tutte e due. Allora facciamo la via di mezzo così, questo cosa regola, abbassa il volume, guarda a vedere, cosa abbassa il volume e questo sta andando così. Eia. Allora lasciano potente, però abbassa appena per il volume, vediamo un po' se regola. Ma stavi dicendo già, ma la mia stai parlando, così tutto al massimo il volume. No, così è troppo. Guarda così, mi pare da così prima, va bene? Un pochino ancora in più. No, così dici tu, guarda così, va bene? No, in più. Così allora, dici così, guarda così. Così è bella presente, lasciala così, bella corposa, presente, va benissimo. Positivo, infatti sono chiusi, mi pare, sì, sono chiusi. Come? Dove mi chiedi? Tutto aperto? Sì, tutto aperto. Sì, la radio è tutta aperta. Ah, magari. Ecco, non mi piace, no? Allora, mettercelo con le mie vicine. No, mi piace. Non mi piace. Prego, la vado dietro. Non lo sento. Non lo sento. Se c'è la regolazione. Così cosa è chiuso e dietro, aperto? Chiuso. Così tu lo aperto, chiuso, aperto. Un po' di più. Devo aumentare o abbassare? Aumentare. quello è un eco che dà l'effetto cattedrale, lui ti serve bello adesso? Se c'è un eco vabbè, dà l'effetto cattedrale, mi sarei fatto mettere la scheda, ecco lì, e buonanotte, sono a tutti. Ma ha detto, stare la porta, me lo porta, ma voglio lasciare così, non me ne frega niente già. La lascio così, la lascio così e via. Perché poi se non devo mettere il tasto, devo mettere il microfono normale, ma te non l'ho provato il microfono normale, adesso lo provo a vedere come esce. Cavolo. Oh Gianni, come esce col microfono normale? Ma non è male, basso, più basso, magari aumentando il macchinino. E invece l'eco con questo microfono, racconti che c'è il miglior eco con questo microfono. L'eco sì che va bene. Vero, va meglio, io so che va meglio con questo microfono, meglio di quello amplificato. Sì, così va bene, così è di lusso. Va bene, c'è un leggero eco, il microfono, ma che microfono stai usando? Un CTE, uno di quelli palmari, normali. Sì, vabbè. Ma non è a livello di quello là adesso, no? No. Come diciamo potenza, no? Sì, avanti, chi è? Te che adesso mi stai copiando. Vabbè, eravamo basso basso, non so chi è. Capito? Ma va bene, l'eco si addice solo quando c'è il microfono normale. Udi. Sto uscendo adesso, guarda un po'. Sì, adesso sì. Guarda a vedere che non ho avvitato bene il corpo, adesso l'ho avvitato il microfono. Sì, sì, adesso va bene. Mi sa un ecco, si è saputo regolare, fare un po' forte. Addirittura c'è gente che se lo mette a 15 watt, non gli attacca le linee né nulla e vuole una bomba. Zittivo, dai, faccio girare anche questo qua per 2 minuti, così lo facciamo scaldare, cambio cava, questo è bello, eh? Eia, questo qui l'ha fatto bene, positivo il caparrogero, questo l'ha fatto stamattina, è un 48 positivo, questo è il 48 che può essere come questo, ne prende meno del Saturn Echo di colpi al tuo, lo sai, questo è fatto toc, questo non ne prende veramente di colpi, ha fatto le schermature, non lo so cosa gli ha fatto, però questo non prende colpi, è così, è bello, non prende colpi, spero io, però mi fa il video, ce l'ho io qua, però l'ho provato in camion e poi l'ho provato già in stazione a portare, mi è capitato, dai, di passarmi a fianco in camion, ce l'avevo in camion a fianco, io su un altro canale sul 45, no, io sul 5 e lui sul 45 che mi chiamava, non lo sentivo, ho visto che ha parlato il microfono in mano che mi chiamava sopperandomi e ho girato, guardano un paracchino più potente come questo, mi innovo un paracchino normale, no, l'ho adottato da quell'altro 48 e niente da fare, anche che ho provato con Massimiliano, sì, Massimiliano è attaccato, che è vicino a me, è attaccato, io se sono nel 5 e lui è nel 45 non lo sento, prima che sia un paio di canali vicino al suo, almeno due canali vicino al suo per sentirlo, però attaccato, se no non lo sento. Sicuramente ha fatto bene, aveva messo schermature. Sì, sì, c'è una recensione micidiale quando lo metti in cambio, questa è una cosa impressionante. Ma perché se la Midland, se lo fanno i tecnici, perché la Midland non lo fa? Si è persa in certe cagate, guarda che... Perché l'aveva guardato con un bel apparecchio, forse è uno dei migliori che c'è in commercio, di questi apparati così. Lo puoi tutto modificare. È un apparato grosso, che diciamo abbastanza robusto, sempre sì, queste fessiglie. Positivo, positivo, ha detto quello che dietro è color oro, quello ancora meglio, capito? Quello ne prende ancora meno di colpi e si lavora meglio su quello che c'è, cioè il coso color oro dietro, capito? Tipo grigio. E anche se illuminato, però se il colore oro è quello un cazzotto tutto complesso. Da davanti fino a... solo la parte di dietro, ma anche il signore non è corto. Tutti i compiti da una parte di sopra, tutto fatto così. Io uso anche la bandiera americana. E quello mio c'era solo nel trottarino, però. Capito, solo nel trottarino c'era. Invece questi sono i coperchi fatti così pure. A parte il trottarino e i coperchi. Alessio Lupei, sono tutte le carte, tutte le cose. E lui proprio, tutto completo. È bello perché è color ghiaccio e non è fastidioso alla luce, capito? Si vede bene e i pomelli sono trasparenti, sono della stessa grandezza più o meno dei normali, solo che sono una cosa trasparente che si vede tutta la luce ed è un color ghiaccio, acceso color ghiaccio. Ma che mi piace più blu? No, perché non hai visto questo ghiaccio, ce l'ho due di palmiri, anch'io il mio è blu, e cioè, è fatto così blu, capito? È identico, gemello di questo blu, Gianni, e invece questo è bianco, è più bello questo color ghiaccio, è bello perché devi vedere tutti e due accesi, ti dico che è bello, io non l'avevo mai visto così ghiaccio, invece è bellissimo, ti dico che è molto più bello già, perché ce l'ho blu, è gemello, quello di Zio Lupin, fatto in blu, ce l'ho qua, ed è tu accendi una, accendi l'altra, più bello questo. Vedi, c'è più una questione di gusti, là. Io sono fissato con le luci blu da tutte le parti, le luci blu, mi piace il blu del vestire, mi piace tante cose. E così è mio figlio quando dice che colore preferisce, lui dice il blu, sempre. Io volevo blu, anche lo Smith è color ghiaccio qua, tutto bello, tutto compatto, color ghiaccio, capito? Invece l'altro è blu, lo Smith è blu, i canali sono blu, è tutto blu, e quando schiaccia la palla quello diventa arancione, tutto qua. E quello che su YouTube non lo si vedeva, è come anche il magno è così. Il magno ce l'ho, è giù adesso quel magno. Quando c'è la serie mia, al 980, e ho fatto pochi di qui. È positivo, però non mi affida molto il magno di quella verità, non mi affida molto. No, a me mi piace molto esteticamente anche il funzionamento, solo che soffre di derivazione, praticamente si sposta la frequenza col cambiare del tempo. E lo fa anche il brutto quello a quello lì, anche il brutto succede, lo sai. E si deriva termica, praticamente questo cambiamento di temperatura si sposta, per dire, ma non è che si sposta di tanto, non fa, per dire, 27.075, 76, 75, 76, 75, 76, fa sempre così. Che Saturneco fa così, Saturneco fa così. Questo è nuovo, non è che abbia niente, però... lo fa quando scalda molto a questo lavoro. È positivo, eh? Positivo è caparrocero! C'è un eco questa cosa. C'è un eco meraviglioso, cambio! Si gira bene. Non mi piace invece quello del mio, adesso si è spostato, non mi scaragolando più come voglio. Positivo, positivo. Comunque il microfono glielo ho un po' adattato io, questo glielo ho adattato io il microfono. Allora Gianni, questo è elaborato, leggermente elaborato da me, il microfono, ed è un CTE, appena elaborato da me, con qualche accorgimento mio, e poi se faccio sentire uno normale senza niente. Sempre su questa, ascolta la radio, tu la voce mia e tu ti parlo sempre nello stesso modo. Ecco il 2. Allora, questo è senza niente, è normale. Questo è il microfono solo normale, capisci? Ah, ti dirò che anche il normale esce bene. Il primo, diciamo che la voce un po' più corposa ci farà, ma esce bene anche il normale. Positivo, perché gli ho dato una cosa a parlare leggermente, un leggero più corposo, adesso voglio sentire un altro che te lo dà ancora più corposo. Oh, vedi questo, già, questo te lo fa più corposo, sono tre microfoni, tutti e tre precisi, tutti e tre elaborati. Oh già, ci sei, sì. Sì che ci sono. tutti medici, tutti. Non ce n'è uno che ti possa dire cupo, cose, vanno tutti bene, molto bene. Questo qui rimane corposo, la radio è forte. Positivo, dai, sono tre microfoni precisi, Gianni, tre microfoni precisi, però con delle differenze, con delle cose di vere, appena appena più di meno, più di più e più di cosa, questo è uno. Ti ho fatto sentire normale, poi leggermente, questo è un po' di più e te ne faccio ascoltare anche un altro. Oh già, questo. Questo è ancora un altro, ancora sempre, e sono quattro microfoni gemelli con le elaborazioni fatte da me. Già. A parte, ma dovete sono altre cose. cose, cioè tu vatti e voce, cioè tonalità di voce e tonalità e vatti da dietro, sicuramente c'è quello lì. Allora no, mi sa che sono parla ascolta dietro la voce. Ah, ecco, per l'ascolto te lo metti e poi innesca, però è la voce bombata. Poi quello di rallentare l'eco e di allungarlo la coda, tirare, fare tirare... Senti così. Bisogna toccare da dentro. E mi lascia fare qual è il trigger, però. Vabbè, ma io te lo so, però. Vedete, le cuffie sono che ti piace, questo io... Praticamente ti avvicini troppo al baracchino. Positivo e caparroge. Senti che coglia. Marco c'è fatto wow wow wow. Marco l'ha fatto così. Non toccarlo più il microfono. che stavi usando tu cos'è, non lo so. Non è amplificato. Sì, sono già, questo sto operando io adesso. Non è amplificato. Microfoni normali, il GTX, questo è come la Fayette, preciso la Fayette. Solo che tu lo metti normale non va bene. E allora io l'ho elaborato un po'. Con la Maduri, Gesto Stefano. quei malattini modificati, ma come siciliani non ce l'è. Secondo me è proprio appropriato allora accendere. È una cosa allucinante, proprio la lingua loro col suo accento gira come si deve, vabbè, poi però ci sono idea mia e magari ce ne sono tanti altri, però è un altro killer, guarda. Killer è una volta. Questo, questi picchi di modulazione così non ce li hanno, capito? Salgono sì, Cambogia che chiudo tutto al mio papà nanna. Ci sentiamo, buonanotte, buonanotte anche a tutti i Recipro PVL, nonché a Recipro Bucu, che sono all'ascolto. E ci sentiamo magari alle prossime. Buonanotte.